2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 26 settembre 2009. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it, quindi molto semplice, 2024@radio24.it. Anche questa puntata, vi ricordo, sarà disponibile a partire dal lunedì pomeriggio sul nostro sito internet. Sarà possibile scaricare il file MP3 della nostra trasmissione. Ci sono varie modalità, quella che vi consigliamo anche per comodità è quella del servizio podcast, che vi dà la possibilità di scaricare in maniera anche automatica, settimana dopo settimana, il file audio della nostra trasmissione. Oggi ci occuperemo ampiamente di telefonia mobile, ma non solo. Ci sono anche alcune novità che riguardano ad esempio il dominio.it. Dalla prossima settimana le novità ve le racconteremo in questa puntata. Adesso alcune notizie della settimana. Il garante della privacy ha ribadito che è illecito monitorare in modo sistematico e continuativo la navigazione in internet dei lavoratori. In base alle linee guida fissate dall'autorità, i datori di lavoro possono procedere a eventuali controlli in modo graduale mediante verifiche di reparto, d'ufficio o di gruppo prima di passare a controlli individuali. È invece lecito, e alcune società lo fanno, bloccare almeno per alcune ore l'accesso a siti ritenuti inutili ai fini dell'attività lavorativa, come ad esempio Facebook o altri social network. Ci sono alcuni ascoltatori che ci hanno segnalato appunto che alcune aziende, magari nelle ore centrali dell'attività lavorativa, alla mattina e al pomeriggio, non vietano di accedere a questi siti, ma bloccano l'accesso, quindi di fatto evitano che i dipendenti perdano tempo su questi siti internet. Una notizia che riguarda il mercato dei computer. Secondo Gartner, le vendite di PC raggiungeranno nel mondo 285 milioni di unità, con un calo rispetto al 2008 del 2%. Secondo la società il peggio sembra passato e alcuni esperti prevedono una ripresa del mercato dei computer dopo l'uscita di Windows 7 prevista per il 22 di ottobre. Naturalmente ci occuperemo ampiamente dell'uscita del nuovo sistema operativo della Microsoft, che cerca di risolvere tutti i problemi creati con Vista, che è stato di fatto un vero e proprio fallimento, e quindi sicuramente sono molto ampie le aspettative su Windows 7. Il Parlamento francese ha approvato nuovamente la contestata legge sulla pirateria online, che consentirà di tagliare la connessione ad internet a coloro che verranno scoperti ad effettuare download illegale, quindi a scaricare dai sistemi peer-to-peer musica, film e altri contenuti senza pagarli, o comunque contenuti protetti dal diritto d'autore in modo illegale. La legge era stata già bocciata dalla Corte Costituzionale ed ora è stata modificata, ma non è escluso un nuovo ricorso presso la Corte. Che cosa dice questo provvedimento? Per mettere in pratica questa politica, la politica del governo francese, verrà creata un'autorità che potrà indagare sugli utenti sospettati di scaricare contenuti in modo illegale. Questa autorità potrà poi inviare degli avvertimenti, ma l'ordine di tagliare la connessione, quindi di disconnettere l'utente, insieme ad una sanzione che può arrivare fino a 30.000 euro, potrà essere emesso soltanto da un giudice dopo due avvertimenti scritti. Quindi se viene individuato a scaricare contenuti illegali verrai avvertito, ci sarà un secondo avvertimento, la terza volta il giudice potrà bloccare la connessione. Nella prima versione tutto il potere era concentrato in questa nuova autorità e questo era stato dichiarato incostituzionale dalla Corte. In pratica i giudici avevano detto che per togliere internet ad un utente ci vuole un magistrato, perché internet viene considerato un servizio importante al punto che solo la magistratura può scegliere la disconnessione. Queste modifiche sicuramente rallenteranno molte cose. Molti in Francia continuano a ripetere che difficilmente si otterrà un risultato, che la legge è inapplicabile e che l'autorità costerà un sacco di soldi. Il dibattito sulla pirateria continua in tutto il mondo, e proprio sul tema della disconnessione, si parla di questo anche in Gran Bretagna. In Gran Bretagna, nel Regno Unito, gli Internet Service Provider, capeggiati dal colosso British Telecom, dicono che questo sistema delle disconnessioni forzate costerebbe troppo rispetto al danno all'industria dei contenuti. Per seguire gli utenti costerebbe, dicono, 1 milione di sterline al giorno, per un totale quindi di 365 milioni all'anno, quindi sarebbe troppo costoso. Sempre in Gran Bretagna prosegue il dibattito sulla creazione di una rete a banda larga di nuova generazione e, visto che un po' in tutto il mondo la domanda è chi pagherà questa rete di nuova generazione in fibra ottica, i pragmatici anglosassoni potrebbero mettere una mini tassa. È quasi sicuro che ci sarà questa mini tassa sulle attuali reti telefoniche, sarà di 50 centesimi al mese, che sono circa, cioè sono 6 sterline ogni anno, poco più in euro. Per saperne di più, da Londra, Giorgia Scaturro. Via la nuova generazione di banda larga, con una connettività in grado di coprire l'intero territorio, super veloce e tassata per legge. I britannici stanno per fare i conti con il peso fiscale della tecnologia. Avere una linea di telefonia fissa costerà ad ogni utente 50 centesimi al mese, circa 6 sterline l'anno, che serviranno a finanziare il broadband del futuro. Il tutto sancito da una nuova legge, neanche a dirlo già alquanto controversa e dibattuta, che dovrebbe assicurare la copertura dei 175 milioni di sterline all'anno, circa 190 milioni di euro, necessari a garantire l'accesso ad un minimo di connettività di 2 megabyte a tutta la popolazione entro il 2012. Al momento solo l'11% delle case britanniche non arriva a tale connessione, secondo il rapporto presentato in questi giorni in Gran Bretagna, nel quale il ministro per il digitale, Stephen Timms, ha confermato che la nuova tassa di 50 centesimi sulle linee di telefonia fissa sarà presentata al Parlamento di Westminster a novembre insieme al Digital Economy Bill. Un'altra notizia della settimana riguarda i treni. Dopo circa un anno dalla nascita di Pronto Treno, l'applicazione per smartphone di Trenitalia per acquistare i biglietti del treno dal cellulare, è arrivata anche la versione per iPhone. I primi telefoni ad essere stati supportati, perché i più diffusi, sono stati i Nokia. A seguire sono arrivati anche i BlackBerry, Motorola, Samsung e Sony Ericsson. Ricorderete che circa un anno fa abbiamo parlato diffusamente di questa applicazione, che permette appunto di comprare in maniera molto semplice e veloce il biglietto del treno. Si riceve un SMS con un codice, così come succede quando si acquista un biglietto su internet, ma l'applicazione rende le cose molto più semplici dal cellulare. Se non avete ancora provato la prima volta che dovete acquistare un biglietto di un treno, beh, sicuramente vale la pena di acquistare con il servizio ticketless su internet, oppure se avete uno smartphone, che sia un Nokia, che sia un BlackBerry, un Motorola, Samsung, Sony Ericsson oppure un iPhone, vale la pena di scaricare l'applicazione e di acquistare dal telefonino. Come vedete, uno dei limiti degli smartphone è che ogni produttore ha un proprio sistema operativo e quindi l'applicazione deve essere scritta per quel tipo di telefono, con i conseguenti problemi di produzione, distribuzione, quindi di ritardo. Prima normalmente si producono le applicazioni per i sistemi più diffusi, quindi nel caso di Pronto Treno per Nokia, e poi arrivano anche gli altri. Comunque, dicevo, se siete interessati potete andare sul sito di Trenitalia alla voce Mobile Ticketing. Il mobile ticketing è una fetta di una cosa che gli esperti chiamano mobile commerce, per differenziarlo dal più ampio e-commerce, quindi non semplicemente commercio elettronico, ma commercio elettronico in mobilità con il telefonino utilizzato come strumento per acquistare servizi o prodotti. Ma affinché tutto ciò si affermi è necessario creare sistemi di pagamento facili da utilizzare, veloci, sicuri, ma soprattutto facili da utilizzare. Per parlare di pagamenti elettronici via cellulare è con noi Enrico Donati, amministratore delegato di BWeb. Benvenuto a 2024, Donati. Grazie, buongiorno. Voi siete una software house, producete software, siete particolarmente interessati al mondo della telefonia mobile. Per quale motivo? Alcuni motivi sono facilmente comprensibili, ma le cose stanno cambiando così rapidamente che è bene magari ribadirli anche questi motivi. Per noi è molto interessante perché stiamo rilevando, insomma, stiamo riscontrando un forte sviluppo della domanda di soluzioni e applicazioni per i telefonini, chiamiamoli così per semplicità, Quindi è un canale in più che si aggiunge al canale web tradizionale, che mi richiede di stare davanti a un PC e che invece mi viene, come dire, mi rende possibile in mobilità poter fruire di tanti contenuti o accedere a servizi operativi. Questo è un elemento importante perché, diciamo, crea nuovo spazio, e le nuove piattaforme, a partire dall'iPhone a tutte le altre che si stanno diffondendo, come Android, la piattaforma che ha lanciato Google e che stanno adottando molti produttori di telefonini, sono piattaforme che rendono più facili la produzione di applicazioni. Noi in realtà lavoriamo da tempo su questo fronte, lavoriamo su tutti i tipi di cosiddette piattaforme o sistemi operativi, ma diciamo che queste nuove piattaforme, questi nuovi telefoni così facili da utilizzare, con un'interfaccia più facile, stanno aprendo e facendo crescere questo mercato. Ecco, noi abbiamo parlato spesso in passato di applicazioni, molti ascoltatori sanno di che cosa parliamo, cioè di programmi molto semplici che vengono installati sul telefonino e ci permettono di fare tante cose, o sul telefonino direttamente oppure sul telefonino collegato ad internet. Per quale motivo l'arrivo delle applicazioni rende le cose più facili, più interessanti per il mercato, e l'ecosistema che si è creato grazie a questi telefoni, questi smartphone, un po' più simile a un computer rispetto ad un telefonino, che utilizzano le applicazioni, ecco, per quale motivo questo agevolerà lo sviluppo di una serie di mercati, tra questi anche il sistema dei pagamenti, che poi farà sviluppare anche il cosiddetto mobile commerce, cioè il commercio elettronico via mobile, quindi compro qualche cosa tramite il mio telefonino. Ma diciamo che in passato molti pensavano che le applicazioni che già si sviluppavano su piattaforme come Symbian, che è il sistema operativo dei Nokia, sì, telefoni più diffusi, insomma, no? E altre, avrebbero lasciato il passo al browser sul telefono, quindi all'accesso direttamente al web dal browser del telefonino. In realtà, con l'arrivo di iPhone e delle altre piattaforme che abbiamo citato, si sta verificando, e tutti possono notare, che l'applicazione, cioè un piccolo pezzettino di software che scarico sul telefonino, mi consente una cosiddetta user experience, cioè una modalità di uso del servizio molto più ricca. Oltretutto l'applicazione mi consente di lavorare anche offline. Sì, anche questo è sicuramente un vantaggio, mentre se utilizziamo il browser per accedere ad alcuni servizi dobbiamo essere per forza connessi. Senta, Donati, parliamo anche di, come del resto abbiamo annunciato all'inizio della nostra trasmissione, di pagamenti elettronici. Voi avete tra l'altro da poco realizzato un'applicazione proprio in questo settore, perché le cose stanno diventando un po' più interessanti rispetto a qualche anno fa. Come stanno cambiando le cose? Che cosa possiamo aspettarci per i prossimi mesi? Ma diciamo che si parla da molti anni di utilizzo del telefono come strumento di pagamento. Poi, per ragioni sia normative, regolatorie, sia diciamo anche di facilità d'uso effettivamente dei telefoni disponibili, non si è mai sviluppato molto. Le previsioni dicono invece che c'è una espansione molto significativa di questo mercato, forse più nei paesi in via di sviluppo che in quelli già sviluppati, perché è incredibile, perché i paesi in via di sviluppo hanno una penetrazione dei cellulari che è molto molto più elevata della penetrazione dei conti correnti, e quindi non ci sono carte di credito, ce ne sono pochissime, non ci sono sistemi di accesso al conto corrente. La gente ha però l'accesso a internet via telefonino, perché in questo modo comunica con i parenti che se ne vanno all'estero, ma anche all'interno dello stesso paese. Quindi si sta sviluppando, ed è in fortissima crescita, il mercato del cosiddetto mobile money transfer, cioè il modo con cui un immigrato o uno straniero da un paese in cui è ospite può trasferire denaro al paese d'origine, e in questo campo c'è una crescita veramente significativa. Però si sta aprendo anche un mercato più, diciamo, sicuramente interessante per noi che poi lavoriamo soprattutto nei paesi occidentali, insomma in Europa, negli Stati Uniti, che è il mercato, diciamo, dell'uso del telefono come terminale per fare operazioni. E le due modalità che noi oggi vediamo interessanti sono il classico seppur non ancora molto diffuso, mobile banking, e invece quella su cui abbiamo lavorato di recente per la Intuit negli Stati Uniti, la possibilità di utilizzare il telefonino in sostituzione del POS. Stiamo parlando di pagamenti elettronici tramite telefonino. In questa prima parte stiamo parlando del telefonino che sostituisce o comunque si affianca ai normali canali che già utilizziamo su internet per pagare servizi o per acquistare prodotti. Tra poco invece parleremo di una sperimentazione in atto che di fatto trasforma il telefonino in una vera e propria carta di credito, fisicamente sostituisce proprio la carta di credito. Di questo parleremo tra poco. Adesso è con noi Enrico Donati, che è amministratore delegato di BWeb. Lei, Donati, ci diceva poco fa che oggi state notando, e anche i dati delle ricerche internazionali ci indicano, che c'è una forte attenzione, una forte crescita del mercato per applicazioni di, ad esempio, mobile banking. Quindi si utilizza il telefonino per accedere al proprio conto corrente, per controllare il proprio conto corrente o magari anche fare un bonifico dal telefonino, quindi anche in movimento, in mobilità. C'è poi un'altra tendenza sulla quale avete lavorato voi, che è quella della sostituzione del POS, cioè il telefonino come strumento per accettare pagamenti. Ecco, ci spieghi meglio su che cosa avete lavorato e che cosa possiamo aspettarci da questo punto di vista. Ma diciamo che, come voi sapete, il POS è quello strumento in cui l'esercente ci fa strisciare la carta di credito oppure digita i dati e fa il trasferimento di un pagamento verso un conto corrente, preleva da un conto e accredita in un altro. Noi abbiamo sviluppato un'applicazione che consente di trasformare il telefono in un POS, potrei dire per semplicità, e quindi di digitare i dati della carta di credito del debitore, insomma del cliente, sul telefonino, fare la transazione in piena sicurezza, trasmettere via SMS la ricevuta dell'avvenuta transazione, oppure usando un piccolo oggettino che gli inglesi chiamano swiper, dove viene strisciata la carta di credito, prendere via Bluetooth i dati della carta di credito in modo da evitare errori di digitazione. Chiaro, sì, che digitando potrei scrivere il 3 al posto del 2 e così via. Insomma, sì, no? Sì, sì. Questo sistema quindi permette, banalmente, che ne so, ad un ambulante che quindi magari ha difficoltà ad avere un POS. Esistono i POS mobili, però sono degli strumenti che magari, a parte che costano anche un po' di soldi, in questo caso con il telefonino, con qualsiasi telefonino o parliamo di smartphone evoluto? In realtà con qualsiasi tipo di telefonino, anzi devo dire che la società americana che ci ha scelto, se posso fare un pochino di introduzione su questo, ci ha scelto proprio perché noi abbiamo sviluppato da anni la capacità di portare queste applicazioni su ogni tipo di terminale, anche quelli di basso livello, non solo questi smartphone più costosi. E quindi, pensando all'idraulico, al tappezziere, questi gli esempi che ci facevano negli incontri, che girano nel paese e devono raccogliere poi il pagamento ai propri clienti, loro si immaginavano che l'applicazione dovesse funzionare molto bene anche su telefoni di basso livello tecnologico o comunque non troppo complessi come gli smartphone. L'esempio che ha fatto dell'ambulante direi che è proprio l'esempio tipico, insomma, no? L'ambulante è un negozio che sta in una situazione dove magari l'uso di un POS o di un sistema stabile è un po' più complicato, ma anche il taxista usa il POS in molte città per prendere il pagamento, potrebbe essere un professionista, cioè chi va da un cliente e in mobilità in una situazione in cui non ha a disposizione tutti gli strumenti tipici dell'ufficio o del negozio stabile, vuole effettuare una transazione via carta di credito. Questo sistema quindi, diciamo, che non cambia le regole del gioco, cioè il sistema di pagamento rimane quello della carta di credito, quello forse anche del bancomat? Sì, è possibile applicarlo anche nel caso del bancomat, quando il bancomat viene usato come carta di debito, ovviamente. Ho capito, quindi diciamo che, ecco, da questo punto di vista non cambia nulla, cioè il software sostituisce il POS in tutto e per tutto. Esatto, cioè diciamo che probabilmente in questo mercato, in questo ambiente, ecosistema come l'ha chiamato lei, che va verso diciamo l'utilizzo più diffuso di strumenti di pagamento via mobile, via terminali mobili, questo può essere il primo gradino. proprio perché non andando ad alterare i sistemi che stanno nel back-end, quindi diciamo i circuiti di pagamento, le reti e via dicendo, in fondo introduce un'innovazione molto graduale, se vogliamo, non è la rivoluzione, però sicuramente è una piccola innovazione che può valorizzare questi terminali che ormai sono a tutti gli effetti dei computer portatili. Bene, Donati, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buon lavoro, a presto. Grazie e buongiorno a tutti. Diceva poco fa Enrico Donati, l'amministratore delegato di BWIB, che questo è un primo gradino, un primo passo. Questo è un sistema che comunque già si può utilizzare, che già viene utilizzato negli Stati Uniti, ma che può essere utilizzato anche da un esercente in Italia, quindi è realtà. Facciamo un passo in avanti e cerchiamo di capire che cosa potrà succedere in futuro. Siamo sempre nel campo molto vasto, molto complesso del telefonino utilizzato come sistema di pagamento. Ma se prima dicevamo che il telefonino sostituisce un altro strumento che è come il POS, possiamo pensare al telefonino come sostituto della carta di credito vero e proprio, cioè il sostituto fisico, cioè il telefonino che diventa la carta di credito. Saluto Davide Stefanini, che è direttore generale di Visa Europe in Italia. Benvenuto 2024. Buongiorno, grazie a voi. Stiamo parlando di una sperimentazione che voi fate assieme al Credito Valtellinese. Di che cosa si tratta in modo particolare? Esattamente, si tratta della nuova frontiera che noi vediamo come sviluppo dei sistemi di pagamento Visa. Fino ad oggi i sistemi di pagamento Visa sono stati basati sull'utilizzo di una carta plastica che aveva o nella banda magnetica oppure in un microchip le informazioni che consentivano appunto un pagamento attraverso una carta che veniva letta da un terminale. Queste funzionalità sono assolutamente vere anche oggi. Quello che vogliamo fare con questa sperimentazione è provare come invece delle transazioni possono essere effettuate in dei tempi che sono quelli che questa tecnologia fornisce, che sono meno di un secondo. Questa velocità viene realizzata nella realizzazione di una transazione di pagamento non più inserendo la vecchia carta in un terminale, ma strisciando la carta attraverso un lettore di tecnologia contactless. In più, in questa sperimentazione non abbiamo fatto altro che mettere questa tecnologia all'interno di un cellulare, che a questo punto serve per pagare direttamente queste merci che per il momento sono al di sotto dei 15 euro. Quindi stiamo parlando di importi molto bassi, tipicamente legati ad azioni frequenti e veloci, magari azioni quotidiane, come quando si va a prendere il caffè, si mette un euro o anche poco meno di un euro in alcune città per pagare, si esce molto velocemente. Una sperimentazione analoga, forse lo ricorderete, ne abbiamo parlato ampiamente a 2024, in primavera ne abbiamo parlato, è in corso nelle Marche, dove una serie di clienti ed esercenti stanno sperimentando una tecnologia analoga, c'è una carta di credito, in quel caso con un microchip a radiofrequenza, ci sono lettori POS che hanno un'antenna, basta avvicinare la carta al lettore e il pagamento viene effettuato in meno di un secondo. La novità in questo caso di questa sperimentazione che è in atto in Valtellina, poi ne parleremo in maniera più approfondita, è che questo chip non sta su una carta di credito ma è stato inserito in un telefonino, quindi il telefonino sostituisce di fatto la carta di credito. Questo è 2024, siete su Radio 24, ci fermiamo per qualche minuto, riprendiamo tra poco a parlare di pagamenti elettronici, ma parleremo anche di alcune novità che riguardano il mondo della telefonia mobile, parleremo anche di una novità che riguarda la registrazione del dominio di primo livello, il .it. Sapete che esistono domini di tanti tipi, .com, .net, .org, insomma noi in Italia abbiamo il .it. .2024. Riprendiamo questa puntata, vi ricordo che il nostro programma va in onda il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30, ci trovate anche online su www.radio24.it. La nostra puntata è disponibile dal lunedì pomeriggio in formato MP3. Esiste anche un comodo servizio podcast per scaricare il file della nostra trasmissione in modo automatico settimana dopo settimana. Trovate tutte le informazioni online oppure scriveteci una email a 2024@radio24.it. Io sono Enrico Paglierini, grazie per la vostra attenzione. Settimana dopo settimana stiamo parlando in questa puntata di pagamenti elettronici. Tra poco parleremo di alcune novità che riguardano il mondo della telefonia mobile, parleremo anche di una novità che riguarda il dominio di primo livello italiano, il .it. Adesso è con noi Davide Stefanini, che è direttore generale di Visa Europe in Italia. Dicevo, Stefanini, che qua stiamo parlando di una tecnologia di cui molti ascoltatori avranno sentito nominare, RFID, cioè identificazione a radiofrequenza, cioè un chip che viene annegato o in una carta di credito o in questo caso nel telefonino, che viene letto a distanza, a distanze molto, molto brevi, da un lettore. In questo caso i lettori sono dei POS, quindi i tradizionali sistemi per fare pagamenti con carta di credito o bancomat. Questa tecnologia viene utilizzata anche, ad esempio, che ne so, per fare un esempio molto facile da comprendere, il Telepass utilizza questa tecnologia in maniera attiva e non passiva. Gli abbonamenti in alcune città per il trasporto pubblico sono basati su questa tecnologia. Di fatto, quindi, Stefanini, in questo caso il telefonino diventa la carta di credito in tutto e per tutto. Assolutamente, il telefonino diventa il contenitore delle informazioni che normalmente risiedono su una carta di pagamento. Quindi, avvicinando questo telefonino al lettore, c'è questo riconoscimento delle due tecnologie e il pagamento si effettua in meno di un secondo. E questo è particolarmente indicato proprio per tipi di pagamento che, come diceva lei, sono dal caffè al quotidiano, alla rivista, al parcheggio, in tutte quelle occasioni dove non è più possibile aspettare i 20-30 secondi di una tradizionale operazione fatta con carta tradizionale, ma dobbiamo fare il tutto in tempi che siano più efficaci del pagamento in contante. Senta, questa è una sperimentazione fatta in che modo, anche su quale area, quante persone coinvolge, fino a quando durerà? Allora, questa è una sperimentazione che noi stiamo facendo in collaborazione col Credito Valtellinese, che si avvantaggia di una rete di terminali che già il Credito Valtellinese aveva distribuito all'interno di tutto il territorio della Valtellina, in particolare nei 5 comuni province della Valtellina. Questa rete di terminali è appunto basata sulla tecnologia RFID, quindi tecnologia d'antenna, che consente di leggere carte oppure cellulari, in questo senso, solo per avvicinamento. Questo è un progetto che, quindi, è un secondo step di un progetto che è già partito l'anno scorso. In tutto il territorio valtellinese esiste questa tecnologia di accettazione, quindi i bar, le edicole e esercenti di questo tipo hanno questo tipo di tecnologia. A una settantina di collaboratori del Credito Valtellinese verrà dato in dotazione questa versione particolare di un cellulare che conterrà a questo punto in sé le informazioni della carta, e questi 70-80 individui per un periodo di un annetto circa avranno questo tipo di operatività. L'obiettivo ovviamente è quello di capire come questa tecnologia viene accettata dagli esercenti, come questa tecnologia viene accettata dal punto di vista dei titolari, quindi da chi poi usa questa tecnologia, i sistemi che siano ovviamente robusti e solidi per garantire un'operatività quotidiana, per poi ovviamente procedere nello sviluppo di questa offerta ai clienti della banca invece che solo ai dipendenti. Senta, oggi il chip che viene inserito nel telefonino è un chip diverso dalla SIM, quella classica che ci serve per telefonare. In futuro possiamo pensare che il chip risieda sulla SIM e addirittura che i pagamenti possano essere effettuati direttamente sui classici sistemi gestiti dagli operatori. Forse questo non vi fa molto piacere, però immagino che sia allo studio anche un accordo con gli operatori di telefonia mobile. La situazione è esattamente questa. In questo momento nei terminali, quindi nei telefonini che verranno offerti dal Credito Valtellinese ai propri collaboratori, esistono due chip, uno che è la SIM dell'operatore telefonico e uno che è quello che gestisce i pagamenti. Questo presuppone il fatto che ci siano dei terminali che siano di una certa versione, che ovviamente non è comunemente in commercio. Per poter espandere questo servizio su larga scala in commercio serve, come giustamente ha sottolineato lei, il fatto che queste due tecnologie convergano, quindi che su una stessa SIM, su uno stesso chip, risiedano sia l'applicazione telefonica sia l'applicazione di pagamento. Questo ovviamente presuppone il fatto che l'ambito bancario, quindi il sistema bancario e il sistema di telecomunicazioni, arrivino in qualche modo ad un accordo che preveda che un'azienda bancaria possa distribuire servizi anche di telefonia, piuttosto che contrariamente guidato dall'azienda di telefonia. E su questo ovviamente ci saranno le scommesse del prossimo futuro, insomma, e qui è dove vedremo la convergenza delle due esperienze. Stefanini, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buon lavoro, a presto. Grazie a voi. Vedremo poi quanto tempo dovrà passare prima di vedere un'offerta commerciale con un servizio di questo tipo. Adesso parliamo di alcune novità che riguardano il registro, il dominio di primo livello italiano, il .it, e naturalmente anche il registro italiano di questo dominio. Ne abbiamo parlato con Anna Vaccarelli dell'Istituto di Informatica e Telecomunicazioni del CNR, che gestisce appunto il registro italiano del dominio .it. La novità consiste nel fatto che la registrazione passa da un sistema, diciamo, manuale a un sistema completamente automatico, quindi le registrazioni dei nomi avverranno in tempo reale, sempre attraverso degli intermediari che hanno rapporti formali con il registro, e gli utenti interessati potranno, tramite questi intermediari, semplicemente, diciamo, richiedere il dominio secondo gli accordi che hanno con il loro operatore, dare i dati necessari e nel giro di poche ore il dominio sarà tecnicamente visibile in rete da tutti. Sembra una novità di poco conto, in realtà per tanti anni si doveva addirittura compilare un foglio di carta o comunque mandare un fax al CNR a Pisa per registrare un dominio, quindi la novità è interessante. La novità è interessante perché il sistema che attualmente è in funzione ancora per pochi giorni prevede questo tipo di modalità, cioè la sottoscrizione di una lettera di assunzione di responsabilità che deve essere ricevuta appunto dall'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa per poter portare avanti la registrazione di un nome. Tutto questo continuerà ad esistere ancora per un periodo, ma contemporaneamente sarà data la possibilità di fare la registrazione online, quindi in tempo reale, di questi nomi, sempre attraverso gli operatori, attraverso i registrar. Voi avete appunto rapporti con degli operatori che permettono ai cittadini, alle aziende, non solo in Italia ma anche in tutto il mondo, di registrare un dominio.it. Il mercato è un mercato molto complesso, molto vasto. Quanti sono questi soggetti? Attualmente abbiamo contratti con circa 2.000 operatori, con circa 2.000 maintainer, di cui circa un centinaio sono stranieri. Ci sono soprattutto alcuni operatori stranieri che ci hanno contattato perché sono interessati, molto interessati a questa novità, per poter entrare più fortemente nel mercato del .it, anche per il fatto, ci hanno spiegato, che all'estero IT sta per Information Technology, quindi c'è un intero settore che potrebbe essere interessato a sfruttare questa estensione per mettere in evidenza la propria attività. Sì, ci sono dei settori come il punto TV, che solitamente alcune televisioni hanno registrato, oppure il punto FM, che alcune radio hanno registrato, il punto IT appunto per tutto il sistema dell'information technology può essere interessante. Un'altra cosa interessante è, dicevo, la vastità di questo mercato anche in prospettiva, cioè mi sembra di capire che ancora sono molti quelli che non hanno un dominio, tant'è che il mercato ancora è un mercato in crescita e in espansione. Il mercato è potenzialmente in crescita, sia confrontato con altre realtà simili alla nostra, anche solo a livello europeo, sia se si pensa soltanto al numero delle imprese, delle aziende, dei professionisti, degli artigiani che abbiamo in Italia e che non hanno ancora il loro nome sotto il punto IT, quindi neanche un indirizzo di posta, e che invece potrebbero averlo per poter sottolineare la propria identità anche in rete. E questo è sicuramente anche un invito a registrare la propria azienda, la propria attività artigianale, il proprio marchio su internet, facendo proprio una registrazione del proprio sito internet e realizzando magari anche un sito molto semplice. È oramai molto importante essere su internet, c'è chi dice addirittura che se non sei su internet quasi non esisti. Se è vero che per alcune attività, che ne so, una panetteria che si rivolge ad un pubblico molto limitato, forse essere su internet non è fondamentale, pensate a quanti artigiani potrebbero beneficiare della visibilità che dà internet e la rete internet. Questo è 2024, le novità di cui abbiamo parlato partiranno dal 28 di settembre, quindi dalla prossima settimana, c'è già fermento tra gli operatori del settore. In questa nuova edizione di 2024, dai primi di settembre, abbiamo parlato poco del mercato della telefonia mobile, ci siamo persi alcuni annunci, non abbiamo approfondito come normalmente facciamo. Allora recuperiamo con il nostro esperto di telefonia mobile, Massimo Morandi, direttore di Cellulare Magazine. Massimo, bentornato a 2024. Ciao Enrico, un saluto a tutti. Motorola si rifà vedere, si rifà sentire. Motorola con una novità presentata qualche giorno fa negli Stati Uniti, perché stiamo parlando di un prodotto che ancora per il momento non arriverà in Italia. Che cosa ha presentato Motorola e perché è interessante, se non importante, questo annuncio? Allora, ha presentato lo smartphone del rilancio, che è uno smartphone con sistema operativo Android, quindi il sistema operativo di Google, si chiama Dext, ed è importante perché arriva dopo un anno di silenzio da parte del gigante americano. Questo è un telefonino che dovrà essere il modello del vero e proprio rilancio. Non sappiamo ancora quando arriverà in Italia, sappiamo che è stato presentato in America e i primi paesi ad averlo in Europa saranno l'Inghilterra, la Francia e la Spagna. L'idea è che questo nuovo rilancio dovrebbe partire sicuramente entro Natale. Sappiamo che Motorola sta parlando con alcuni operatori che dovrebbero commercializzare questo telefono, ma le nostre fonti ci dicono che c'è una serie di modelli molto interessanti per il 2010, quindi se il Natale 2009 dovrebbe essere l'antipasto del rilancio, il 2010 dovrebbe davvero vedere la ripartenza di questo importante produttore di telefonini che per tanto tempo è stato il numero uno al mondo. Tu hai detto che per vedere questo telefono in Italia, comunque anche negli altri paesi, è importante trovare un accordo con l'operatore. Mi sembra di capire che soprattutto negli ultimi mesi gli accordi con gli operatori di telefonia mobile siano sempre più importanti, perché i telefoni hanno necessità di collegarsi ad internet. Esatto, molto spesso. È vero, e questo sarà un telefono che non farà eccezione, perché ha una fortissima vocazione ai social network, permetterà di avere sempre sotto controllo tutti i social network, non solo Facebook, che comunque è il più chiacchierato e forse anche il più importante. E quindi per questo ci vuole la tanta banda, ci vuole un collegamento continuo con internet. La realtà è anche che oggi fare gli accordi con gli operatori è molto difficile, perché nei primi mesi dell'anno si sono venduti pochi telefoni. Oggi siamo in grande recupero secondo gli ultimi dati, e quindi gli operatori vogliono analizzare molto bene i telefoni che si prendono a magazzino prima di metterli sul mercato. Ti faccio una domanda relativa ai coreani, visto che nel panorama della telefonia mobile Samsung ed LG sono comunque marchi che stanno crescendo un po' in tutto il mondo, in particolare Samsung. Quali sono le ultime novità? L'ultima novità è arrivata proprio questa settimana con un evento mondiale che per la prima volta si è tenuto in Italia, qui a Milano, nel corso del quale è stata presentata la nuova famiglia di telefoni Corby. Sono tre modelli colorati, molto fashion, indirizzati ad un target piuttosto giovane. Tre modelli con tre tipi molto simili tra di loro in quanto a funzioni, ma con tre tipi di interfacce diverse. C'è il modello completamente touchscreen, c'è il modello con la tastiera QR e c'è il modello con lo slide, quindi la possibilità di interagire con il telefono sia con le dita sul touchscreen sia su una tastiera fisica. LG? Beh, LG ha presentato, come ti dicevo, le presentazioni sono state tante, avremo un Natale molto ricco di prodotti, questo è una certezza. Ha presentato due telefoni, il nuovo Chocolate, molto vocato verso la navigazione internet con uno schermo cinematografico addirittura, e ideale anche per vedersi dei veri e propri film sul telefonino, e poi una curiosità che si chiama Watch Phone, potremmo definirlo l'orologio di 007, è a tutti gli effetti un orologio, ma a tutti gli effetti anche un telefonino, con uno schermo touchscreen, con un collegamento Bluetooth e addirittura con la banda larga HSDPA, quindi è veramente un concentrato di tecnologia che costerà tanto, perché costerà 990 euro. E ci sarà chi comprerà anche questo prodotto, e sicuramente nella fascia alta del mercato della telefonia mobile ci sono prodotti che sono piuttosto costosi, a volte c'è chi fa il confronto con i computer e costano molto meno i computer, ma certo, perché la tecnologia per costruire uno smartphone è come capacità in alcuni casi simile o addirittura più potente di un computer, ma in uno spazio molto più ristretto con tutta una serie di vincoli e di problemi. A proposito di tecnologia all'avanguardia, nelle prossime settimane c'è molta attesa per l'arrivo di un nuovo prodotto di Nokia, molti ne parlano, anche alcuni ascoltatori ci hanno scritto, si chiama N900, è un prodotto che sarà dotato di un sistema operativo basato su Linux, anche se continua naturalmente lo sviluppo di Nokia per tutta una serie di altri prodotti con Symbian, ma per capirne di più abbiamo fatto una chiacchierata molto interessante con Marco Pandocchi, che è responsabile dei prodotti in Nokia Italia. Il primo prodotto che noi andiamo a presentare nella categoria dei mobile computer, che va un po' ad aumentare le caratteristiche tecnologiche che abbiamo presentato finora negli smartphone basati su Symbian, ha come ambizione il fatto di portare in mobilità le funzionalità che i technology leader di oggi trovano solo ed esclusivamente attraverso il proprio computer fisso. Quindi questo è il nostro primo passo nell'integrare innanzitutto un sistema operativo basato su Linux con interfaccia MIMO 5, che vuole avere l'ambizione di essere una piattaforma aperta e quindi completamente modificabile da chi andrà a sviluppare applicazioni per questa tipologia di sistema operativo, che abbia però delle caratteristiche in termini di performance che diano all'utente un'esperienza internet assolutamente non paragonabile con quello che il mondo telefonico e gli smartphone hanno offerto finora. Il prodotto infatti ha un browser nativo basato su Mozilla, che dà effettivamente la possibilità di vedere qualsiasi pagina internet proprio come si vede sul computer, avendo un supporto di HTML5. Avremo presto, se non nella release di lancio, ma nelle software release successive, un browser Firefox per questo terminale, quindi con tutti i plugin integrati con Firefox, e come detto precedentemente è un prodotto che dà un'esperienza di navigazione, di interazione con tutte le applicazioni di social networking di cui gli appassionati di tecnologia non possono più fare a meno, davvero unica. Questo è un prodotto che si connette con tutti i sistemi che oggi conosciamo, quindi principalmente il Wi-Fi e le reti di telefonia mobile. Tornando al sistema operativo, questo vuol dire che vi state preparando a sostituire il noto sistema operativo che voi utilizzate, cioè Symbian, cioè che il futuro di Nokia sarà molto probabilmente basato su Linux? No, il futuro di Nokia non sarà basato su Linux, il futuro di Nokia vedrà Symbian come un sistema operativo dedicato agli smartphone, con una sempre più ampia gamma di utenti, e vedrà Linux affiancarsi a Symbian per dare la possibilità ai nostri utenti di punta, che noi amiamo definire i technology leader, di avere dei prodotti che si allontanano un po' di più dal mondo telefonico e avvicinano sempre di più il mondo internet alla mobilità. L'N900 arriverà in Italia tra 2-3 settimane e nell'infinito dibattito tra chi preferisce l'interfaccia touchscreen e chi preferisce la tastiera, beh, nell'N900 ci sarà sia l'interfaccia touch sia la tastiera, così si accontentano entrambe le categorie. Io continuo a dire che in alcuni momenti è preferibile la tastiera rispetto alla sola interfaccia touchscreen, ma come dicevo, questo è un dibattito che continuerà per tanti anni. Un'altra novità attesa presentata recentemente da Nokia è un netbook, quindi un piccolo computer portatile che viene denominato booklet 3G, dove naturalmente c'è la connettività per la rete, e in questo modo Nokia torna nel segmento e nel mercato dei computer. Un'altra novità che riguarda il mercato della telefonia mobile, in questo caso parliamo di un operatore, verrà lanciata entro la fine dell'anno, entro Natale, si chiama Vodafone 360, è stata presentata questa settimana. Ne abbiamo parlato con Vittorio Veltroni, che è direttore della divisione Internet Services per Vodafone Italia. La piattaforma è una straordinaria innovazione perché apre delle funzionalità di rete a chi sviluppa servizi, chi sviluppa contenuti, e mette a disposizione della creatività, appunto, di chi sviluppa contenuti e servizi una cassetta degli attrezzi ricca. Faccio un esempio: noi apriremo per chi è capace la locazione, quindi la capacità di trovare dove si trova una persona, sia la parte di billing, quindi la capacità di poter mettere a pagamento sia un'applicazione sia delle attività all'interno di questa applicazione, e permetteremo anche di capire alla stessa applicazione se un cliente in quel momento è sotto copertura GPRS o GSM o MTS, che per esempio nel mondo bancario è molto importante perché permette di capire se in quel momento c'è abbastanza campo e abbastanza velocità per portare a termine una transazione. Su questo noi abbiamo costruito anche un nuovo paradigma di rapporto fra la persona e il telefono, non più basato sull'attività, cioè su quello che io voglio fare col telefono: mando un SMS, mando un MMS, faccio una telefonata o magari navigo su internet, ma basato sulle persone con cui noi vogliamo comunicare. Si parte quindi dalla persona e si decide poi se da questa persona noi vogliamo fare una telefonata, un SMS, un MMS, un instant messaging, vogliamo vedere lo stato su Facebook, piuttosto che sapere in questo momento su una mappa, sempre se questa persona ci ha dato il permesso, dov'è. Avremo sicuramente modo di tornare su questa novità, che di fatto è una sorta di application store di Vodafone, con tutti i vantaggi dell'essere un operatore. Ci saranno anche dei telefoni con a bordo già tutta una serie di servizi collegati a Vodafone 360. Di questa novità e anche delle novità di cui abbiamo parlato poco fa trovate ampia copertura sul sito del Sole 24 Ore, quindi www.ilsole24ore.com, nella pagina tecnologia e business trovate tutte le novità di cui abbiamo parlato poco fa a 2024. È tutto per questa puntata, torniamo la settimana prossima saremo a ridosso del compleanno della radio. Radio 24 compie 10 anni e anche 2024 compie 10 anni, uno dei pochi programmi della nostra radio che ha cominciato ad andare in onda il 4 ottobre 1999 e siamo ancora qua a raccontare la tecnologia. Io sono Enrico Pagliarini, grazie per la vostra attenzione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci risentiamo il prossimo sabato, sempre nel pomeriggio di Radio 24, oppure su internet sul nostro sito web. You are disconnected.